Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. La fuga. La fuga è una forma musicale polifonica basata sull'elaborazione contrapuntistica di un'idea tematica, a volte due o tre, che viene esposta e più volte riaffermata nel corso della ricerca di tutte le possibilità espressive e o contrapuntistiche da essa offerte. La struttura della fuga e i procedimenti imitativi e canonici in essa applicati si sono consolidati tra il XV e il XVII secolo. Beppe, cos'è questa cosa? Dalla seconda metà del Seicento alla prima metà del Settecento, quindi nel momento di massimo splendore del barocco, la fuga è stata la più importante forma contrapuntistica strumentale. Io sono interessato. No, per le sue caratteristiche, no. La fuga è stata scritta soprattutto per strumenti polifonici, in grado cioè di riprodurre contemporaneamente due o più suoni. Senti, ma c'è già Armando Torno. Ma anche per vari insiemi strumentali o vocali. Ma per una volta che diamo un contenuto. Ma non lo voglio dare il contenuto. Considerata una delle più importanti espressioni del contrappunto nella storia della polifonia occidentale. Noi siamo senza contenuti. No, ma questo... Oggi parliamo o non parliamo di fuga? Oh. Sì, questo è vero, effettivamente. Oggi parliamo di fuga e quindi ho pensato, perché non fare un inizio culturale per una volta? Perché non regalare... Hai fatto... non capito? Bene, cioè non hai fatto bene, hai fatto benissimo. Finalmente sì. Off Topic diventa un programma utile. Lo rifacciamo, tutto uguale. No. Sì, anzi facciamo posso così. Posso andare avanti? Da adesso in poi. Dal basso medioevo no, andiamo basta! No, da adesso in poi le puntate di Off Topic sono così. Leggiamo una pagina di Wikipedia. Sì, perché cos'è, ragazzi? Leggiamo bellissimo. Una pagina di Wikipedia, o un commento mio, un commento sì. Tuo e la chiudiamo. 22 certo. Minuti. Quanti ne abbiamo oggi di minuti? 23. Dai, sì, 23. Andrea Roccavella, 23 abbiamo minuti. 23 minuti, cari ascoltatori. Io aprirei anche una pagina Facebook e andrei a compulsare laureati all'Università della Vita, visto ti che prego. Ci siamo. Dai, partiamo con la sigla, dai, cominciamo. Topic. Fuori dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Allora, parliamo di fuga effettivamente oggi. Di cosa parliamo? Perché, allora, sapete, cari ascoltatori di Off Topic, che la redazione di Off Topic è allargata anche sui nostri social, quindi Telegram, Twitch, Facebook, Instagram. Sì. Come sapete, ogni domenica noi lanciamo, domenica sera, lanciamo il sondaggio per il tema della puntata, domenica mattina, domenica sera, lanciamo il sondaggio per la puntata, il tema della puntata. Lo lanciamo su Telegram. Su Telegram, esattamente. Sì. E con il 49% sì. Vince, mollo tutto e apro. Un chiosco sulla spiaggia. Gli altri che si stavano spareggiando erano e anche oggi andiamo in palestra domani e abbiamo una lingua così bella. Ma vince col 49%, mollo tutto e apro un chiosco sulla spiaggia. No. Cosa no? Riccardo, veramente? Sì, ha vinto quello. Molli tutto e apri un chiosco no, sulla spiaggia? No, non io. No. Non io. Riccardo, Beppe. Io capisco che tu sia stanco della tua vita in bianco e nero. No, ma io capisco che la radio non ti soddisfi, che la radio ti fa schifo, che è evidente. Fai una trasmissione mediocre con tre individui di cui non condividi nulla. Ma lavori 12 ore al giorno per una delle trasmissioni più ascoltate d'Italia, ma la sera, quando ti metti a letto, hai sensi di colpa e fai bene. No, vivi in un monolocale mansardato che quando ti alzi la mattina rischi sempre di sbattere la testa nelle travi di legno, cucini con un fornello elettrico da campeggio nella città della movida e dello show business. Riccardo, molla tutto, tanto non c'è niente. No, molla. È vero, effettivamente molla, sì. Molla, apriti un chiosco sulla spiaggia, è vero, fai bene. Sai effettivamente che cos'è che non ho? Non cucino, questo sì, cioè io penso di non aver mai usato in 10 anni il fornello. Cioè capito? Proprio è una cosa che non capisco. Tu io sei come Giuseppe Gambardella, tu esci sempre sì. A cena fuori, ragazzi, vero? Sì, e sì. Fai fallire le feste anche tu, come no, Conte? No, cerco di animare. Cerco di questa, animare. È una, questa è una battuta da Poli, ho imparato da te. Questa è molto bella, questa è molto bella. Comunque oggi appunto parliamo di chi ha deciso di prendere baracca e burattini, come si dice, di fare le valigie e di mollare tutto e di andare dall'altro capo del mondo, oppure anche banalmente trasferirsi nella città in fianco, ma di mollare tutto e di dire ok, cambio vita e vedo se ci riesco. Mi trasformo. Esatto, mi trasformo. Tra l'altro, ragionando in redazione anche con la nostra redazione allargata, esistono due tipi di persone, no, che fanno questo. Sì. Quelli che millantano questa ipotesi, quindi sì, mollo tutto, però poi non lo fanno, sì, solito i dipendenti pubblici, per dirla. Ma perché? Amici. Ma da dove si poggia guarda, questa frase? Guarda che soprattutto no, anche quelli privati, sì, tantissimi. Sto scherzando, dai, sì, stereotipi, ragazzi. Sì, anzi no, secondo me, no, dico questo perché il dipendente pubblico in realtà ama fare il dipendente pubblico. Io amerei fare il dipendente però pubblico. Però ama anche lamentarsi e dire, ah, se potessi. Secondo me sono quelli che si lamentano di meno. C'ho questa idea, per cui chi si lamenta di più è il privato, quello che lavora per il privato. Perché il tuo stereotipo si fonda per caso sul fatto che lì si lavori meno? No, no, no, no, e su no, cosa no, si poggia, caro non amico lo so, Alessandro? Non so, mi immagino che se uno lavora nel pubblico, no, aspetta, ho una razio. Sì. Allora, mi immagino nella mia sì, testa che il chi lavora nel pubblico, come dire, è talmente all'interno della macchina sì, che come dire, l'ha accettata in maniera buddista, in maniera kafkiana, ci sei è così, punto. Invece il privato ha un po', cioè sta facendo una velleità di sta facendo l'impiegato, cambiare il mondo, sì, vero, no, vuole riformare. Esatto, però ha come dire un afflato ancora ingenuo sì, e dice invece voglio non c'è ingenuità, siamo tutti degli scrivani Bartleby, rimaniamo così e moriremo così. Sono molto rassegnato. Fantastico. È un sabato sera divertente questo. Cioè, no, comunque perché, no, scusami, il luogo comune mollo tutto e apro un chiosco sulla spiaggia, sì, cioè sinceramente a me mi fa venire la pecora. Che poi perché scusatemi che poi perché sempre gola in spiaggia, cioè ci pensavo ieri sera perché in spiaggia perché non in montagna, in montagna. Sì, esatto, tipo, sarà uno a cui piace la montagna, cioè mollo tutto, apro una baita e montagna un rifugio, vado a fare gli spezzol, no? Sì, in Trentino. Comune è così, poi chiaramente si può declinare in mille modi. Tra l'altro, allora, dicevo, ci sono quelli che lo millantano, ci sono quelli che lo fanno e sì, nella categoria che ci piace di più ci sono quelli che lo fanno e sì, poi non dico che si pentano, ma tornano indietro perché c'è un po' di ritornismo, c'è la voglia di voglio ricordarsi tornare a fare l'impiegato sì, di banca. Quindi sono queste tre categorie dell'essere, dello spirito. Quindi oggi so, ovviamente ne parliamo con un ospite e quindi insomma non ci resta che aprire l'argomento. Da Fuerteventura, no, no? Salvador de Bahia, no, no, Cabo Verde, no, no, Gran Canaria. In realtà è Buccinasco, Thailandia, dov'è? No, penso che sia a Torino, se non sbaglio, o a Ivrea, non lo so. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Ciao, dove ti trovi adesso? A Torino. Avevo detto giusto. Andrea è uno di quelli che è partito quando era più giovane, poi dopo ha capito che non c'è nulla da vedere, è tornato a Ivrea, vero o no Andrea? Dici questo, così facciamo una puntata. Io permetterei che quando ero più giovane, cosa erano 5 anni fa, quindi mi ritengo ancora tale, sono 5 anni. Sì, è vero. E sì, sono partito e sono rientrato poi su Torino. La meta è stata la Giamaica. Adesso raccontiamo passo per passo. Intanto Andrea Cavallo sì, Perin, tu sei un videomaker, sei un freelance, sei sì, molto giovane perché sei classe molto giovane, sei classe 86 in realtà, sì, sei coetaneo di Alessandro. Siamo vicini. Esatto. E tu a un certo punto nella tua vita hai iniziato a capire che ti piaceva viaggiare, ti piaceva un pochino mollare, non dico tutto perché ti portavi il lavoro dietro sempre comunque, però di provare a sperimentare in giro per il mondo cosa voleva dire essere un italiano, ovvero Andrea, in Giamaica, in giro per il mondo, poi ci racconterai un po' di cose. E tutto è nato da un progetto iniziale che si chiamava Social Experience, giusto? Sì, tutto nasce da lì, da quel progetto lì dove appunto un esperimento sociale che avevo messo un po' in piedi grazie a un piccolo video teaser che raccontava quello che desideravo fare, ovvero trasportare il mondo delle amicizie fittizie del web e vedere se poteva essere utile nella realtà, ovvero parto da Torino appunto e devo arrivare giù in Sicilia in 2 settimane, che erano 2 settimane di ferie, senza utilizzare denaro, senza sapere dove andare a dormire, senza sapere dove mangiare e facendomi seguire appunto dalle persone sui social network e vedere dove mi mandavano. E non avevi soldi, non avevi un soldo in tasca o avevi una base di partenza? 50 euro, 30, no, 70? No. Il concetto era proprio quello. Zero soldi. Zero euro, davvero? Zero di niente. Mamma mia. Per vedere appunto Cioè, molti venivano fuori con commenti sulla pagina, è un progetto scroccone. Sì, uno scroccone. Infatti ci scrive un ascoltatore adesso su Twitch, chiedetegli come fa a venirgli in mente di usare i social per fare la zecca e scroccare cibo e ospitalità a sconosciuti in cambio di una non meglio specificata visibilità. No, perfetto. Ma non era in cambio di quello, no, credo. È arrivato l'hater perfetto, sì. Barone della Cipa, no, gli vogliamo bene. Io capisco, poi il mio era veramente una cosa per vedere se si riusciva a trasportare quello che era queste amicizie che uno ha con cui magari ti scrivi, non ci scrivi, gente che ti segue, che ti commenta, eccetera, nella realtà, se può diventare un incontro, se ci può essere uno scambio, che può essere un racconto, come un'ospitalità, come un viaggio, quindi in macchina da un posto all'altro. E poi io non avevo deciso le mete, le decidevano proprio le persone che seguivano il progetto. Cioè mia nonna ti può portare da Pescara a non so dove, perché oggi va lì e io sono lì e prendevo, andavo con la nonna in quel posto. Ma ti prego, dimmi che sei andato con una nonna, però, perché è bellissimo questo racconto. Assolutamente, in Liguria, no? Sono stato, figurati se ti hanno chiesto i soldi dopo, immagino, visto che siamo in programma di stereotipi, ho detto belli sarebbero 2 euro. No, ma hanno anche offerto il pranzo. Comunque è una bella risposta per i cinici come me, hai trovato un'umanità generosa. Assolutamente, è stato veramente speciale, non pensavo neanch'io. Io avevo la risposta dal web subito dopo aver lanciato il video teaser, che era ottima, nel senso tanta gente aveva iniziato a seguire il profilo e il progetto. Dall'altra parte però non sai se si trasforma in realtà. Tra l'altro il tuo è un afflato interessante, perché parte dal dire: ma poi questi social, ovvero queste amicizie social, sono reali o no? E mi pare di aver capito che questa era la tua provocazione. Cioè, ho 500 amici su Facebook, ma quanti valgono? Quanti di questo mi danno ospitalità o un passaggio, mi danno una mano in questo progetto? E quindi è una bella rottura. Dopodiché ti chiedo, che cos'è che hai mollato però in realtà? Cioè, qual era la tua vita in quel momento? In quel momento, in verità, ho semplicemente mollato le mie certezze, ovvero io non avevo mai fatto autostop in vita mia, non avevo mai pensato di intraprendere un viaggio da solo senza dei soldi, quindi in quel momento ho semplicemente mollato il mio stato, il tuo status, di ragazzo agiato. Esatto. Che vive sereno, si fa le sue vacanze con gli amici, al suo lavoretto, e non si è mai messo in gioco veramente. Tra l'altro, Andrea, io lo confesso, io mi cago addosso a pensare di fare autostop. Cioè, è una cosa proprio che, a parte che non è nella cultura italiana, ma non solo in Italia, però non è molto, non è culturalmente italiana. Già va in Germania, è una cosa diversa. Quei stereotipi su stereotipi. Vabbè, però, poi... cioè, proprio io ho sempre immagine la scena, ho sempre in testa l'immagine che mi sgozzano e mi mettono in un bagagliaio. Cioè, questa è lo stato. Quando dico autostop penso a quello. Però vedi una vita poco, cioè un po' turbata tu, Riccardo, no, però, ma con Andrea, la paura che ti sgozzino e ti mettano. Però Andrea ha abbattuto questo timore. E poi Andrea, cos'è successo? Che fatto questa esperienza tu hai fatto un concorso della Campari e lì veramente hai mollato e sei finito in un posto dove potevi aprire un chiosco sulla spiaggia, perché poi il titolo del concorso era anche questo. Sei finito in Giamaica, no? Com'è andata? È andata che è uscito questo concorso, un mio amico me l'aveva fatto notare, appunto pensando potesse essere un soggetto interessato, e nulla, primis non lo, se si può dire, non l'ho cagato, certo, ma per il semplice fatto che volevo lavorare. Esatto, poi... perché poi eri lì per lavorare, per un'azienda, per un privato. No, diceva prima ancora l'ho cagato perché stava lavorando, non l'ho proprio cagato. Poi successivamente mi è stato fatto di nuovo notare la cosa che stava per scadere, allora perlomeno ho provato, no? Gli invii last minute, quelli che si fanno. Sì, così. Praticamente era il giorno prima della scadenza. Quindi, ti hanno selezionato tra una micidialata di video. Poi ci sono una serie di contest interni per poter vincere, arrivare primo. È andata piuttosto molto bene e ammetto che tutti gli altri concorrenti, soprattutto verso la fine, quando eravamo in pochi selezionati, erano delle ottime persone, professionisti. Però attenzione, non avrebbero mai mollato tutto per andare in Giamaica, probabilmente, o sì? Sì, no, l'avrebbero fatto, perché se avessero vinto dubito che mi avessero detto: Andrea, vuoi andare al posto mio? No, sarebbero andati. Senti, ma c'è una cosa della tua vita precedente che ti ha proprio fatto dire, cioè, di solito cosa accade? Stiamo male con noi stessi, c'è qualcosa che non va, c'è una difficoltà. Qual è quella roba che dici, cioè, meno male mi sono lasciato indietro quella cosa lì, non la voglio più vedere all'interno della mia vita, ovviamente, cioè dentro di te, qual è la cosa che hai abbandonato e che non vuoi più vedere del te stesso precedente? Partendo, se esiste, dici. Sì, partendo, mollando tutto. Penso le le certezze dello status che abbiamo ormai dentro la nostra forma mentis, nel senso viviamo in questa cultura, qua ci dobbiamo creare una nostra posizione e fuori, se ci vado, ci vado per vacanza, per godermi il tempo libero, quando invece secondo me mettersi in gioco è molto più eccitante e soprattutto ti dà un'adrenalina e una voglia di fare, di costruirti, che perdi nel tempo stando seduto nel tuo comfort. Ma nel pratico della vita di tutti i giorni qual è la cosa che, come dire, che vedi che è cambiata? Cioè spendi meno, pratico, mangi con meno soldi, mangi, fai più attenzione alla cucina, cosa fai? Quali sono le attività? Ma secondo me sono un po' di semplicemente la sensibilità. La sensibilità, cioè di essere un po' più sensibile rispetto a diversi aspetti della nostra quotidianità, che sì, possono variare dal cibo o alle problematiche delle persone che ti circondano. Questo nel mio caso, non so se forse è troppo astratto, però no. È chiaro. Senti Andrea, all'inizio della puntata abbiamo parlato della nostra redazione allargata su Telegram, offtopic_24. Siete voi ascoltatori che ci raggiungete in questa chat allargata, si chiacchiera sui temi delle puntate e anche di tanto altro. D'altronde siamo off topic, quindi non abbiamo un unico tema di cui parlare. Ci ha mandato un audio Marco, sentiamolo. Ciao ragazzi, mi chiamo Marco, vengo da Genova e 3 anni fa, dopo aver vissuto per qualche anno a Milano, ho deciso di mollare il mio lavoro a tempo indeterminato e di trasferirmi a Londra assieme alla mia ragazza. E il motivo principale che mi ha portato a questa decisione è stato il fatto che la mia vita in quel momento stava cominciando a diventare monotona e ripetitiva e ho realizzato che avevo bisogno di una svolta. Dopo 3 anni qua, tirando le somme, posso dire di aver preso un'ottima decisione e ovviamente ci sono i momenti di malinconia in cui mancano famiglia e amici, ma per quei momenti basta una videochiamata o dei biglietteri e in 2 ore sono in Italia. A distanza, giustamente. Però secondo me il nodo è a tempo indeterminato. Cioè, a noi italiani fa molta paura questa cosa, no? Di mollare qualcosa, come diceva anche Andrea, di mollare qualcosa di sicuro per andare verso un ignoto, che è il fatto del mollo tutto. Alla fine è questo, in estremissima sintesi. Lasciare, allora, cercando comfort... su internet, visto che dici mollo tutto, vi faccio questa proposta. Sì. Se io googolo mollo tutto e vado a... No. Ragazzi, scusatemi, dobbiamo andare a cercare nell'internet cosa esce, sì, no? Sì, sentiamo. Allora, esce, mollo tutto e vado a vivere in camper. Vabbè. Mollo tutto e vado a Lampedusa. Perché? Non lo so. Per aiutare i migranti. Beh, cioè, essere, sì. Lodevole. Mollo tutto e vado a vivere in barca, ci sta. Vabbè. Poi mollo tutto e vado a vivere a Seregno. Ho scoperto che c'è una pagina Facebook. Esiste una pagina Facebook che si chiama Mollo tutto e vado a vivere a Seregno. Seregno, per chi ci ascolta al sud o al centro Italia, è una cittadina qua della Lombardia, della provincia lombarda. Seregno. Poi c'è vado a vivere in campagna in montagna, no? E poi c'è vado a vivere a Lipari. Così. E poi vado a vivere in Tunisia. Perché tolgono le tasse alle pensioni, cioè è come il Portogallo, no? Vai a vivere in Portogallo. Esatto. La migliore però è questa: mollo tutto e vado a vivere. Cioè quella che ho preferito. Questa è molto bella. Mollo tutto e vado a vivere. Perché vuol dire che non vivi nel momento in cui decidi di mollare. Che insoddisfazione, ragazzi, perché che gira. Esatto, il motore. Perché esatto, mi avete fatto venire in mente che il motore di questo luogo comune è l'insoddisfazione della propria vita. Comunque un altro ascoltatore ci ha mandato un audio di un progetto di famiglia, sostanzialmente. Sentiamolo. Io e le mie sorelle abbiamo un classico gruppo WhatsApp di famiglia. Ecco. E ogni volta che c'è qualche problema, qualche difficoltà, uno dei tre ci riporta all'attenzione il progetto di aprire un chiostro da qualche parte nel mondo. Abbiamo già stabilito dove, la tipologia di chiostro, quale sarà il menù e l'elenco degli alcolici. Praticamente la prossima volta ci manca soltanto di compilare la modulistica per aprire questo chiostro e poi compriamo i voli. Immagino bisogna chiedere alla chiesa, no? Bisogna chiedere cos'è. Per aprire un chiostro toccherà chiedere a chi? Al prevosto, non so, qualcuno, insomma. Sei sbagliato. Però quanto sarebbe bello aprire un chiostro, Così. Quanto sarebbe fuori dal tempo. Sì, però devi costruire un'intera abbazia, giusto? Arrivi a fare un'abbazia col tuo bel chiostro. Però è importante il chiostro, non l'abbazia. Esatto, è la parte centrale. Che lo chiami dell'argomento. Il chiostro, e basta. Quello che mi viene da dire al nostro amico è: ma scusami, ma di solito si parte per abbandonare la famiglia, lasciarla e fuggire da essa, e invece te la porti via. Vabbè, loro probabilmente stanno bene, perché poi ci sono diversi modi di stare male. Cioè loro, tra di loro stanno bene, semplicemente vorrebbero magari, non so, vedere il mare da questo chiostro. Tutti insieme. Un chiostro vista mare, ma che bello. Vuol dire che una parte di chiostro devi abbattere, cioè scusami, dell'abbazia devi abbattere per poter vedere il mare. Se poi ce l'hai a Belluno, sai che casino. casino che c'è. Senti Andrea, ma la rottura di cazzo più grande che hai avuto viaggiando, cioè quando hai mollato tutto, per esempio anche in Giamaica, sei stato 6-7 mesi, quindi è stata un'esperienza lunga. Qual è stata la rottura di coglioni maggiore che hai detto, ma perché, perché? Banalmente all'inizio è stato che ero un bancomat bianco che camminava per strada. Perfetto. Questo è stato l'inizio di... Che ahimè, che vuoi dire, che vuoi fare? È una popolazione comunque per la maggior parte povera, quindi sai che si dice molto, sapete che si dice molto che in Giamaica c'è sto luogo comune del fatto del razzismo, al contrario, cioè verso i bianchi? Verso i bianchi, che non ho assolutamente trovato, probabilmente era così negli anni 70-80, c'era probabilmente. Hai abbattuto uno stereotipo, insomma, cioè una cosa che si dice che poi non è vera. Perché molti me lo dicevano, ma è pericoloso per il razzismo, proprio al contrario, insomma, vabbè, vedrò. Ma tolto questo, che subito ho appurato che non fosse vero, non mi è mai successo niente, proprio il fatto che la gente ti ferma per strada proprio perché sei bianco e quindi di conseguenza... Ricco, secondo loro, certo. Sì. La maggior parte, chiaro. Ma perché, alla fine, Andrea, non hai deciso di fermarti in Giamaica? Cioè di fare veramente quel passo per cui hai mollato tutto e hai aperto veramente un chiostro in Giamaica? Ci sono differenti spiegazioni. Ne dico una per farvi un esempio, perché come me può essere sensibile alla cosa. La popolazione, come ho appena accennato, è estremamente povera come molti paesi del centro Sud America, e la politica stessa non aiuta a creare una classe media, magari, dove magari predilige pagare molto di più un expat come me che era lì rispetto a un locale che sa fare il mio lavoro o il lavoro di un altro in un altro ambito, lo paga magari un quarto. Tolto la politica, la cultura, cioè la cultura, non che la cultura giamaicana non vada bene, anzi io l'adoro e l'ho narrata per 6 mesi ed è seconda casa per me la Giamaica ad oggi, ma proprio il fatto di uscire da casa mia e non poter alzare gli occhi e vedere una bellezza, un chiostro del Bramantino, un chiostro sì, anche quello, anche assolutamente quello, anche nel senso chiostro. Che non c'è molto, non c'è del Bramante, scusa, non c'è, non lo so, una architettura studiata, cioè ne fai un aspetto estetico e di sedimentazione culturale, mettiamola così. Bravo, cioè ecco, quello che noi europei viviamo, altro stereotipo è che quando andiamo in giro per il mondo cerchiamo sempre quello che i romani hanno fatto, sostanzialmente un po' è questo in estrema sintesi. Allora, Andrea, volevo chiederti, Andrea, qual è il tuo prossimo cambiamento? Il mio prossimo cambiamento è un figlio a dicembre. Ah, bravo. Cioè, una complimenti, auguri. Nascerà. Questo qua... Penso che sia un grande cambiamento. E poi avrai il coraggio di mollare tutto nuovamente, secondo te? Portandotela dietro, chiaramente. Dentro di me rimane comunque quel segno, no, nel DNA di prendere e andare sempre in giro. Quindi sicuramente con la mia compagna e la bimba, è la mia compagna della mia stessa idea, quindi siamo molto allineati su questo. Probabilmente ci sarà modo di, sì, questo di posso dirvi che è. Allora Andrea, in bocca al lupo per quello che succederà a dicembre, che probabilmente sarà il più grande cambiamento della tua vita, ma in questo senso veramente, e appunto in bocca al lupo. Ciao, grazie mille. In questo caso potremmo dire tipo non mollare, no? No, esatto, non mollare, e mi raccomando il chiostro. Allora ragazzi, ciao Andrea. Fatemi salutare un attimo Alexander, sì? Che ci scrive dall'Argentina, ci sta salutando su Twitch dall'Argentina, e il mio professore delle scuole superiori mi ha scritto oggi inaspettatamente che ci sta ascoltando. Ma chi se ne frega? No, in Ungheria a lavorare. Ma sì, gente che all'estero, era in tema con la puntata, ragazzi, assolutamente, cioè. In tema, assolutamente. Ragazzi, allora vi ricordiamo i nostri recapiti Off Topic 24 su Instagram, seguiteci, scriveteci lì e noi vi diciamo tutto, o se no su Telegram Off Topic _24. A tutto cosa dobbiamo dirgli? Noi rispondiamo a chiunque. Sì, sì, no, cioè, tipo, non so, non sapete che pane comprare stamattina? Ve lo dico io, stamattina un bel filone. Sì, è buonissimo. Ma no, ma non è così. Sì, di grano duro. Che disastro. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.